Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio, ultime puntate prima delle battute finali, prima delle vacanze. Io sarò con voi ancora per tutta la prossima settimana, poi ci sarà con voi Irene Zerbini per 3 settimane, quindi Salva Danaio mantiene la sua linea diretta. Monitoreremo ancora attentamente il mercato, chiaramente, perché qua chissà che non arrivi qualche sorpresa d'agosto come è successo lo scorso anno, ma poi cominceremo anche ad occuparci in maniera più forte, più intensa di tematiche estive. Ancora non ce la facciamo perché ancora ci sono tanti temi finanziari che vi interessano, che vi preoccupano e che dobbiamo approfondire, e allora oggi ne abbiamo scelto un altro, anche se lo sapete bene, sto promettendovi da qualche tempo che avrei cominciato ad alleggerire un po' le puntate di Salva Danaio. Non ce la facciamo, ribadisco, perché molti di voi chiedono appunto di affrontare determinati argomenti, noi cerchiamo quanto più possibile appunto di farlo. E allora, sentite un po' che cosa ci è arrivato negli ultimi giorni. Questa mail: gentilissima dottoressa Rosciani, ieri mi è pervenuto dalla mia banca, Intesa San Paolo, un telegramma. E che vorrà con un telegramma la banca? Di solito si manda per le condoglianze, speriamo di no, o convocazioni urgenti di consigli di amministrazione. Così è iniziata la lettera che appunto abbiamo ricevuto da un nostro ascoltatore che si chiama Carmine la settimana scorsa. Carmine è uno dei detentori di obbligazioni Intesa San Paolo, detentori che hanno ricevuto un'offerta di buyback, ovvero la richiesta di riacquistare obbligazioni che erano state vendute in precedenza. Questa offerta si è chiusa di riacquisto, questo buyback si è chiuso giovedì scorso. Con questa operazione l'istituto ha raccolto richieste per più di 6 miliardi di euro. Il risultato che ha ottenuto la banca, appunto, poi vi diremo esattamente i dettagli della chiusura dell'operazione, permetterà appunto alla banca di ottimizzare la composizione del proprio patrimonio di vigilanza attraverso l'incremento di quel parametro del quale leggiamo ogni tanto sui giornali. Si chiama Core Tier 1, è l'indicatore della solidità della banca ed è una necessità per la banca, perché le autorità europee da tanto tempo stanno chiedendo appunto di aumentare questo parametro a tutte le banche europee. Chi fa difficoltà naturalmente poi si trova in crisi. Continuava il nostro ascoltatore: Intesa vuole riacquistare i titoli che mi ha venduto 2 anni fa in scadenza nel 2017 e 2019, rispettivamente acquistati a 95 uno e ora ne offrono 89. L'altro titolo è stato acquistato a 48, ora ne offrono 41-42. Mi dicono che l'affare è buono perché io dovrei comprare dei BTP alla stessa scadenza e che prenderò il 4,5% di interesse più il 100% del capitale di partenza alla scadenza. Quindi Banca Intesa, contestualmente alla proposta di riacquisto delle proprie obbligazioni, suggerisce anche all'ascoltatore come in qualche maniera compensare quello che ci andrebbe a perdere dall'operazione. Una possibilità che dunque per qualche caso, per qualche investitore, per qualche risparmiatore sarà stata una possibilità conveniente, in altri casi invece si sarà ritenuto magari di non aderire a questa operazione perché ritenuto rischioso. Ad esempio Carmine si chiede se sarà ancora conveniente acquistare BTP tornato dalle ferie, visto che lo spread potrebbe scendere. E allora noi oggi a Salva Danaio parliamo di obbligazioni societarie, in particolar modo di queste bancarie, e in particolar modo parliamo del buyback, cioè del riacquisto di obbligazioni in questo caso, ma in genere il buyback lo fanno anche quelle aziende che riacquistano sul mercato azioni proprie. Cerchiamo di capire con i nostri esperti di che tipo di operazioni si tratta, quando sono convenienti o meno e quali aspetti vanno presi in considerazione per valutare queste proposte da parte delle banche, anche perché ce ne sono altre di operazioni in circolazione ed è presumibile pensare che altre grandi banche italiane possano nei prossimi mesi fare operazioni di questo tipo. Con noi quest'oggi Marcello Ferrara, analista dell'ufficio studi Consultic, una società di consulenza indipendente. Ferrara, buongiorno, bentornato a Salva Danaio. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. E bentornato a Salva Danaio anche ad un altro consulente finanziario indipendente, Gianni Lupotto, titolare dello studio Lupotto & Partners. Buona giornata anche a lei. Buongiorno. Anche a Gianni Lupotto, nei giorni scorsi sono arrivate molte lettere da parte dei suoi clienti, molte richieste di consulenza perché i propri clienti chiedevano: mi è arrivata questa lettera di Intesa San Paolo, cosa faccio, cosa non faccio, aderisco o no, come faccio a capire se mi conviene ridare indietro l'obbligazione alla banca oppure tenermela fino a scadenza. Se vi è capitata la stessa cosa, raccontatecelo all'800 24 00 24, oppure scriveteci al 349 238 6666, oppure scriveteci una mail all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, oppure potete andare a commentare questi temi sul nostro profilo Facebook salvadanaio-radio24. La borsa ancora una volta oggi è un po' ostaggio delle dichiarazioni che arrivano dalla Germania, lo avete sentito nel nostro giornale radio, è stato il tema a cui abbiamo dedicato l'apertura. Il presidente della banca centrale tedesca Weidmann ha detto: la BCE deve rispettare il suo mandato, perché siccome il suo mandato è quello di garantire la stabilità dei prezzi nell'eurozona, probabilmente ancora una volta la Bundesbank ha detto non può fare delle azioni per calmierare il mercato che non ne siano contemplate nel suo statuto, nella sua missione originaria. E questa è stata una dichiarazione che naturalmente ha fatto un po' storcere il naso agli investitori questa mattina, perché chiaramente la Germania, non appena le cose si mettono bene in borsa e anche sul mercato obbligazionario, intraprende sempre qualche iniziativa che poi fa andare tutto al contrario. Tra l'altro, questa dichiarazione, che è stata di qualche giorno fa, ma è stata diramata proprio oggi, anche questa è effettivamente una circostanza piuttosto curiosa, una dichiarazione di questo tipo alla vigilia della riunione della Banca Centrale Europea prevista per domani, nella quale Mario Draghi dovrebbe sollevare il velo su tutte quelle iniziative che ha promesso per garantire la stabilità all'eurozona, che in questo momento è in forte difficoltà, soprattutto come sapete per i paesi periferici. E beh, insomma, è sembrata effettivamente un po' strana, un po' curiosa questa dichiarazione fatta trapelare oggi. Detto questo, la reazione del mercato c'è stata, non particolarmente forte, ma in ogni caso la giornata era partita in maniera positiva, poi alcuni indici hanno girato in negativo, quali in particolar modo Milano e la Spagna, che sono chiaramente proprio i paesi più presi di mira nelle ultime settimane. Milano adesso perde mezzo punto percentuale, oltre un punto, e ribasso di Madrid, mentre le altre piazze si mantengono prudentemente positive. Beh, insomma, qualcosa di più della prudenza, soprattutto su Londra, che segna più 0,7%. Parigi stamattina andava molto meglio, adesso ha limitato il suo guadagno a più 0,34%. Francoforte si è portata sulla parità. L'euro sul dollaro a 1,23,10. Solamente due casi vi segnalo di Piazza Affari: Mediaset meno 10,20%. Il gruppo è in netto calo dopo aver annunciato ieri un calo degli utili del 73% nel semestre. I dati sono in linea con le attese del mercato, ma ci sono state delle sorprese in positivo, perché evidentemente le operazioni di contenimento dei costi sono un po' più forti del previsto e gli analisti forse non se le aspettavano queste iniziative. Invece vola Parmalat più 7%, anche in questo caso dopo la comunicazione dei suoi risultati trimestrali, che sono evidentemente stati superiori alle previsioni del mercato. Vi segnalo anche il più 2,44% di Lottomatica, più 1,38% di Prismian. Oggi riunione anche della Banca Centrale Americane, anche stasera sentiremo sui tassi cosa fa la Federal Reserve e soprattutto se ha in programma nuove iniziative di sostegno e di allentamento monetario. Qualcuno dice che però potrebbero essere annunciate non prima di settembre. Giornate dunque molto calde, molto importanti. Noi oggi ritorniamo invece a fare il punto sulle decisioni di investimento delle famiglie italiane. Molte in passato hanno scelto di acquistare obbligazioni bancarie, nella fattispecie quelle di Intesa San Paolo, che però negli ultimi giorni ne ha riacquistate, ha deciso di riacquistarne un po' attraverso questa operazione di buyback. Sentiamo la nostra scheda. Più di 6 miliardi di euro. Questo è il risultato raggiunto da Intesa San Paolo nell'operazione di buyback che l'istituto ha portato a termine tra il 18 e il 26 luglio. In sostanza, la banca ha proposto il riacquisto di alcune obbligazioni che aveva collocato in passato ai risparmiatori che le detenevano. Una delle principali motivazioni che spinge le imprese ad adottare questa politica, e sono diverse ad averla attuata ultimamente, è l'eccesso di liquidità. L'azienda ritiene che possa essere più redditizio investire questa liquidità nelle proprie azioni e obbligazioni, piuttosto che adoperarla in altro modo. Agli obbligazionisti viene data così la possibilità di smobilizzare immediatamente il proprio investimento a prezzi più elevati rispetto a quelli di mercato. Sta al cliente valutare se accettare l'offerta o meno. In alcuni casi aderire può essere conveniente. Permette di monetizzare una plusvalenza imprevista, che potrà, ad esempio, essere investita subito in un altro prodotto con caratteristiche simili, ma con un rendimento superiore. In altri casi, invece, sarà più opportuno continuare a detenere l'obbligazione e non rinunciare ad un rendimento interessante garantito alla scadenza. Come sempre, insomma, la decisione va valutata con attenzione in ogni singolo caso. Considerando tutte le variabili in gioco e soprattutto raccogliendo tutte le informazioni utili per scegliere consapevolmente. 800 24 00 24 è il numero verde che vi permette, se vorrete, di intervenire in diretta con le vostre domande, oppure ci potete scrivere al 349 238 6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Potete andare a commentare anche i temi del giorno oppure degli ultimi giorni che abbiamo trattato sul nostro profilo Facebook salvadanaio-radio24. Allora, Gianni Lupotto, inizio con lei perché anche lei, con la sua newsletter che ci manda anche a noi giornalisti oltre che ai suoi clienti, aveva affrontato la questione chiaramente per i suoi clienti. In molti hanno appunto sollevato l'interrogativo nei suoi confronti chiedendosi se fosse un'operazione conveniente o meno. Intanto mi ha molto stupito l'ammontare, questo l'ho scoperto per la verità documentandoci in questi giorni sulla vicenda, delle obbligazioni bancarie di Intesa in circolazione. Si tratta per la verità di due tipologie di titoli, obbligazioni subordinate e obbligazioni senior. Qual è la differenza, Lupotto? La differenza è sostanzialmente nel grado di priorità del rimborso in caso di insolvenza dell'emittente. I titoli senior vengono rimborsati in via prevalente, quindi in via prioritaria. I titoli subordinati, da questo punto di vista, hanno un profilo di rischio più elevato. Ecco, però sono, diciamo, indistintamente titoli che possono essere in mano anche a piccoli risparmiatori, oppure magari i senior sono in mano solamente ad investitori qualificati di un determinato tipo di profilo e i subordinati sono, diciamo, di taglio più piccolo e vanno ai piccoli risparmiatori. C'è anche una differenza da questo punto di vista? Sì, diciamo al contrario, normalmente i titoli senior, che sono meno rischiosi, sono in mano anche a privati. I titoli subordinati normalmente vengono collocati per una clientela di tipo istituzionale, tuttavia va detto che molte volte sono accessibili anche a una clientela retail. Allora, Banca Intesa San Paolo negli ultimi anni ha collocato tante obbligazioni sul mercato. Io adesso continuo a citare questa banca, ma lo hanno fatto tutte le banche italiane. È stato un modo anche per fare raccolta da quando soprattutto il mercato interbancario si è congelato, si è fermato, insomma ha avuto tutte le sue difficoltà, e sono tanti i titoli Intesa in circolazione, Lupotto, qualcosa come 30 miliardi di euro, una marea di finanziarie. Sì, in realtà sono molti di più le emissioni in circolazione, sono centinaia le emissioni di Intesa San Paolo. In particolare questa operazione di buyback ha interessato 32 obbligazioni, quindi 32 emissioni, 12 di tipo subordinato e 20 di tipologia senior, per un nominale in circolazione complessivo per l'appunto di 30 miliardi. Questo era il nominale complessivo interessato da questa operazione. Però la banca ha detto: io ne riacquisto non tutte, faccio una proposta alle persone che ne hanno acquistato in passato, che le hanno sottoscritte in passato, di riacquisto per un ammontare di 1,5 miliardi di euro, quindi una cifra molto inferiore rispetto al nozionale, diciamo, in circolazione. Sì, l'offerta era di tipo volontario, quindi c'era la facoltà di aderire o meno. La banca, non sapendo a priori in quanti avrebbero aderito all'offerta, ha dichiarato nel prospetto di offerta che appunto avrebbe speso un massimo di 1,5 miliardi in questo riacquisto, e ha anche diciamo elencato un ordine di priorità attraverso il quale sarebbero state poi successivamente eventualmente rimborsate le richieste. Poi spiegheremo anche questo aspetto, e infatti poi il tema della scala di priorità, della gerarchia di rimborso, diciamo, è un tema importante, perché ci sono state richieste per 6 miliardi di euro, quindi in teoria sono stati interpellati tutti gli investitori di queste obbligazioni. La banca però ha precisato sin dall'inizio all'inizio noi ne accontenteremo per 1,5 miliardi di euro, di conseguenza andranno scelti. Marcello Ferrara di Consultic, secondo lei era scontato un successo di questo tipo, mi passi il termine, e lo si può considerare tale il fatto che ci siano state richieste per 6 miliardi di euro a fronte di una disponibilità di riacquisto per 1,5 miliardi da parte della banca? Sì, sicuramente lo si può interpretare come un segnale di successo da parte dell'istituto che ha raccolto offerte sicuramente come risultati abbastanza importanti. Quindi questo permetterà alla banca di raggiungere l'obiettivo che si è dato, ossia quello di ottenere delle plusvalenze con cui migliorare i propri ratio patrimoniali. Certo, allora a lei è chiara invece, io lo so che lei è chiara naturalmente, l'operazione con cui verranno accontentati i risparmiatori, gli investitori che hanno fatto richiesta di adesione a questo buyback, come funzionerà questa gerarchia di cui ci parlava prima Lupotto? Allora, tutti quelli che hanno offerto titoli Tier 1, ossia quei titoli maggiormente rischiosi, verranno completamente accontentati, ossia significa che tutti quelli che sono stati offerti all'istituto, l'istituto si impegna a riacquistarli. Per i titoli lievemente meno rischiosi, cioè i lower tier 2, e per i senior invece si va a riparto. Nello specifico per quello che è la quantità minima verranno accontentati tutti, cioè per i lotti minimi verranno accontentati tutti, successivamente si va a riparto. Sui senior si va a un riparto di circa il 30%, sui subordinati lower tier 2 si va in riparto al circa meno del 10%. Allora, devo dire che più ascolto appunto le spiegazioni degli ascoltatori, più l'operazione ci appare chiara, al di là del fatto che poi bisogna anche come dire, chiarire gli aspetti legati al prezzo. C'era un ascoltatore che ci faceva una domanda molto intelligente, non vuole intervenire, allora la rubo io, la domanda di Roberto da Lucca, che all'800240024 si chiede: ma insomma, come fanno a riacquistare questi loro titoli in circolazione se non hanno liquidità? Lupotto, questo è il punto centrale. Come dire, riescono a farlo grazie anche alla liquidità che ha dato loro la Banca Centrale Europea nei mesi passati. Ci ricordiamo tutti quelle due operazioni straordinarie fatte lo scorso inverno da Mario Draghi, con le quali appunto è stato garantito credito aggiuntivo alle banche ad un tasso molto contenuto, l'1% nell'arco di 3 anni, Lupotto, no? E allora perché la banca utilizza questo denaro per riacquistare i suoi titoli? Beh, è proprio così. Nell'operazione, in particolare la seconda, quella di febbraio, la cosiddetta Long Term Refinance Operation 2, che fu un'operazione di circa 500 miliardi, di questi 500 miliardi ben 24 sono stati presi da Banca Intesa, da Intesa San Paolo, quindi la banca si trova effettivamente in uno stato di liquidità e quindi pagando questa liquidità alla BCE all'1% trova utile utilizzare una parte di questa liquidità per rimborsare anticipatamente queste obbligazioni che sono invece diciamo munite di una cedola ben più alta dell'1%, quindi attraverso questa operazione la banca si trova ad avere un costo del proprio debito inferiore nei prossimi 3 anni, tanto è vero che se noi andiamo a vedere i titoli senior che sono stati rimborsati, quelli a priorità 1, sono stati rimborsati proprio i titoli con scadenze fra il 2013 e il 2015, che guarda caso sono i 3 anni dell'operazione. Della disponibilità data loro appunto dalla Banca Centrale Europea. Poi faremo un ragionamento sui prezzi, perché appunto anche l'ascoltatore che ci ha scritto, che e vi ho letto appunto una parte della mail in apertura di programma, solleva qualche interrogativo a proposito dei prezzi di riacquisto, perché chiaramente chi in fase di collocamento ha acquistato a 100, adesso la banca gli dice: guarda, io te li riacquisto a 95, quindi è chiaro che ci va a perdere, ma potrebbe anche essere, però è sicuramente un guadagno se si vanno a considerare i valori di mercato di queste obbligazioni che sono ancora inferiori. Cosa diversa è chi invece avesse acquistato in un momento successivo sul mercato secondario queste obbligazioni, magari potrebbe averlo fatto a prezzi ancora più bassi e quindi il prezzo del riacquisto della banca potrebbe essere conveniente. quindi come in tutte le circostanze, situazioni molto differenziate. Adesso cercheremo di valutarne ad una. Salvadanaio, certo che vi mette proprio a disposizione temi un po' pesanti considerato il mese di agosto, però abbiamo imparato in questi anni che è bene sempre tenere molto alta l'attenzione sulle tematiche finanziarie. Ricordate cosa è successo un anno fa, era in questo periodo che cominciava a volare lo spread e quindi chi è andato in vacanza si è ritrovato con qualche brutta sorpresa, per cui mai abbassare la guardia sulle questioni di risparmio. E quindi abbiamo deciso, anche se è il primo agosto, di continuare a mantenere la nostra attenzione viva sulle tematiche finanziarie. Ce n'è una che ci hanno sollecitato molti ascoltatori, si tratta di questa iniziativa appunto che ha intrapreso Banca Intesa San Paolo nelle ultime settimane, che ha chiesto ai sottoscrittori delle proprie obbligazioni se fossero disponibili a ridarle indietro attraverso un'operazione che in gergo finanziario si chiama di buyback, riacquisto proprio in termini molto semplici. E allora il collocamento si è chiuso giovedì scorso, la banca si era dichiarata disponibile a riacquistare, anche se la mole in circolazione è molto più alta, obbligazioni per un valore di 1,5 miliardi di euro. I risparmiatori che hanno risposto all'offerta avrebbero chiesto teoricamente 6 miliardi di euro, però appunto la banca, secondo una gerarchia molto specifica e ben specificata anche nel prospetto informativo, ne accontenterà per 1,5 miliardi di euro, a meno che poi non si riaprano i giochi in futuro e la banca è decisa di continuare questo procedimento di riacquisto. Noi stamattina stiamo parlando con due consulenti finanziari indipendenti, Marcello Ferrara per Consultic e Gianni Lupotto per lo studio Lupotto & Partners. E tra l'altro, Ferrara, torno da lei. Il buyback in questo caso è di tipo obbligazionario. La banca riacquista le proprie obbligazioni, ma molte società quotate in borsa periodicamente decidono di farlo anche con le proprie azioni. Le motivazioni di queste operazioni possono essere le più disparate. C'è chi parla di una iniziativa di manifestazione di fiducia nei confronti della società quotata, oppure qualche volta le aziende intervengono quando è necessario sostenere i corsi azionari se questi sono particolarmente bassi. Ci spiega un po' la natura di operazioni finanziarie di questo tipo? Ma effettivamente, come lei diceva, generalmente queste operazioni avvengono sul comparto azionario, dove le società tendono a riacquistare quelle che sono le proprie azioni sul mercato per sostenere il titolo, nonché per un eventuale successivo processo di annullamento delle azioni, col quale incrementare le quote che poi effettivamente gli azionisti detengono della società stessa. Sull'obbligazionario, quindi sostanzialmente non è notizia positiva, il mercato la percepisce come notizia positiva. Sull'obbligazionario il discorso si può sostanzialmente ricondurre sulle stesse linee, cioè Intesa o tutti gli altri istituti bancari che si sono che hanno effettuato questa tipologia di operazione anche nei mesi scorsi, da un certo punto di vista sostengono le obbligazioni sul mercato secondario perché offrono dei valori superiori a quello che il mercato esprime in quel determinato momento. In più l'istituto o gli istituti attraverso questa operazione riescono a generare plusvalenze che possono portare a bilancio. E questo è il caso, per esempio, il caso di Intesa San Paolo? Questo è il caso di Intesa San Paolo, ma è il caso di tutti i vari istituti italiani che da febbraio a oggi hanno fatto questa tipologia di operazioni. Intesa San Paolo aveva già nel febbraio scorso lanciato un'operazione col quale aveva già rimborsato circa più di 1 miliardo di euro e questo aveva generato plusvalenze per circa 180 milioni, ma la stessa Unicredit nel febbraio scorso fece 1,8 miliardi, UbiBanca, Banco Popolare, MPS più recentemente, tutte quante hanno fatto operazioni di questa natura e proprio con questa finalità. Ed è anche abbastanza plausibile pensare che altre ne arriveranno, no Ferrara? Sicuramente tutti i grandi istituti si sono mossi in questa direzione, è possibile che si possano verificare delle nuove operazioni di questa natura, sicuramente, fin tanto che le banche hanno un buon livello di liquidità da poter investire, questo sicuramente è una delle operazioni che possono fare. Allora dopo magari daremo qualche indicazione concreta ai nostri ascoltatori, qualora nelle prossime settimane dovessero ricevere da parte della propria banca una proposta di questo tipo, quali sono gli elementi che devono essere tenuti in considerazione per valutare l'opportunità o meno di adesione all'operazione di riacquisto. Sentiamo Carlo da Milano, il nostro primo ascoltatore di oggi, all'800240024, il nostro numero verde. Carlo, buona giornata. Sì, buongiorno a lei, Deborah. Volevo chiedere se io ho sfortunatamente comprato delle obbligazioni subordinate da una banca, se nel momento in cui la banca me l'ha proposta doveva fornirmi un supplemento di informazione rispetto all'informativa normale, del tipo per esempio che l'obbligazione non era trattata sul mercato ordinario ma sarebbe stata trattata solo sul mercato parallelo o fatto dagli operatori della banca, dove fra l'altro c'è uno spread fra denaro e lettera del 5%. Allora Carlo, si fermi lì, magari sentiamo i nostri consulenti se hanno bisogno di informazioni aggiuntive per risponderle. Gianni Lupotto ha sentito la considerazione. No, Carlo, tra l'altro volevo chiederle, si riferisce anche a questa obbligazione o comunque stiamo parlando di altri prodotti, di altri emittenti? No. In termini generali? In particolare all'obbligazione Monte dei Paschi di Siena, subordinata Tier 1, di cui mi pare che il suo ospite abbia detto che la banca ha proposto il riacquisto, ma io non ho ricevuto nessuna informazione. Allora ritorniamo un attimo a Marcello Ferrara, perché si riferiva ad un'operazione di Montepaschi dei mesi passati. Ferrara, ne ha conoscenza? Esattamente, nei mesi scorsi sulle obbligazioni Tier 1 è stato proposto uno scambio di titoli, a differenza di quanto è avvenuto su tutti gli altri istituti, dove la banca ha provveduto a pagare in contanti, in cash, quelli che erano i titoli. MPS ha offerto in scambio per i titoli in essere dei nuovi titoli senior, in questo caso con delle cedole abbastanza appetibili e scadenze decisamente più brevi. Ora bisognerebbe vedere quale titolo effettivamente aveva in portafoglio, e da lì verificare se era uno di quelli che rientrava nella richiesta, nell'offerta da parte di MPS o meno. Tra l'altro poi lo chiedo a Gianni Lupotto, perché probabilmente sarà anche lui sicuramente informato su questo. La questione che aveva sollevato Carlo era: nel momento in cui io faccio una sottoscrizione di un prodotto di questo tipo, la banca, oltre a darmi indicazione nel prospetto di tutte le caratteristiche di questa obbligazione, deve anche dirmi, eventualmente la banca si riserva la facoltà di riacquistare questi prodotti, anche se magari in quel momento non può conoscere le condizioni alle quali fare l'ipotetico buyback futuro. Lupotto. Dunque, tutte le obbligazioni sono corredate di un prospetto informativo. Questo prospetto informativo elenca in modo specifico se l'emissione può essere proposta anche a un pubblico indistinto, e quindi dal prospetto questo diciamo lo si ricava. E un'altra informazione che c'è sempre nel prospetto è il mercato successivo di trattazione dell'obbligazione stessa, quindi da questo si può inizialmente ricavare l'indicazione se questa obbligazione avrà più o meno liquidità, perché magari verrà trattata su un mercato regolamentato, o se viceversa l'obbligazione non verrà trattata su un mercato regolamentato, e a questo punto è chiaro che le problematiche che sollevava Carlo, quindi di un elevato spread denaro lettera, si fanno importanti. Va anche detto che se diciamo l'obbligazione è riservata ad una categoria istituzionale, questa obbligazione non viene normalmente proposta al pubblico retail per i primi 12 mesi dell'emissione dalle banche italiane. Quindi bisogna vedere nel caso di Carlo se è stata proposta anticipatamente o meno. Nel caso fosse stata proposta anticipatamente, certamente Carlo, se non è soddisfatto del suo investimento, ha qualche elemento in più di reclamo. Benissimo. Tra l'altro stavo guardando anche le caratteristiche di queste obbligazioni Intesa San Paolo che sono oggetto delle buyback. Lupotto, vedo che comunque hanno un taglio di investimento minimo non indifferente, 50.000 euro? Sì, per quanto riguarda le obbligazioni subordinate. Sì, le per altre? Per quanto riguarda le obbligazioni senior ce n'erano molte da 50.000 e qualcuna uno o due da 1.000. Quindi anche proprio un taglio molto piccolo, proprio da sportello. Sì, ce n'era per la verità soltanto una, adesso stavo guardando il prospetto d'offerta. Anche queste saranno state, quindi anche queste di sicuro possono essere state oggetto di buyback o comunque di proposta di buyback da parte della banca, e non è detto che siano state poi soddisfatte eventualmente queste persone. Esattamente, perché è la stessa cosa. Allora, la questione dei prezzi. Allora, prima sentiamo Daniele da Modena, poi andiamo ad affrontare il tema del prezzo di collocamento e di riacquisto adesso. Daniele, buongiorno. Buongiorno. Guarda, io volevo intervenire su due osservazioni. Una, vorrei far osservare che comunque per Banca Intesa è molto facile riacquistare le sue obbligazioni sul mercato quando ha ricevuto i soldi all'1% dalla Banca Centrale Europea. Eh sì, l'abbiamo detto con totale trasparenza all'inizio della trasmissione. Un pezzettino, perché avevo un'altra cosa da fare. E niente. E l'altro, che comunque secondo me Banca Intesa non dovrebbe consigliare i BTP italiani, perché comunque bisognerebbe fare più educazione finanziaria, e nel senso che ci sono tantissimi fondi e tantissime SICAV che offrono gli stessi rendimenti dei BTP italiani con molto meno rischio per gli investitori. Di conseguenza questo non è molto corretto da Banca Intesa consigliare di comprare BTP italiani. Allora, Daniele, è vero che sono il nocciolo duro dell'Italia, le varie banche che conosciamo, che non ripeto, e che devono aiutare lo Stato italiano, però non fanno certo educazione finanziaria ai piccoli risparmiatori, che poi alla fine sono quelli che rimangono sempre, tra virgolette, fregati. Allora, Daniele, no, la ringrazio, prendiamo atto delle sue osservazioni. Adesso io, nessuno di noi ha la totale certezza che invitando i sottoscrittori delle proprie obbligazioni a rivenderle alla banca, contestualmente la banca suggerisca di andare sul BTP. Questo è quello che è capitato all'ascoltatore che ci ha scritto, e io ho letto questo, quindi stiamo parlando su migliaia di persone, per cui Daniele, adesso io non so se sia una prassi della banca fare un'operazione di questo tipo. Qualora venga fatto, adesso sentiremo i nostri interlocutori che cosa ne pensano. Magari è un suggerimento che è coerente con il profilo di rischio dell'investitore, del cliente che viene seguito. Detto questo, è anche vero che le banche italiane la liquidità che hanno ottenuto dalla Banca Centrale Europea l'hanno utilizzata per comprare titoli di Stato, perché era un po' una contropartita necessaria in quel momento per ottenere quel denaro, perché la BCE non poteva fare tutto da sola per calmierare lo spread, anzi non ha nel suo mandato questo compito, per cui doveva poterlo fare indirettamente. L'unico modo era quello di dare soldi alle banche europee e permettere loro, con questa liquidità, visto che non avevano, di fare acquisti sul mercato, appunto, di questi titoli di Stato. Allora, con chi comincio? Gianni Lupotto, inizio con lei un commento sull'osservazione di Daniele da Modena. Sì, come già lei diceva, non possiamo sapere nei singoli casi che suggerimenti siano stati dati. Posso immaginare che nel caso che era stato sottoposto, valutando il rendimento a scadenza residuale dell'obbligazione Banca Intesa, il funzionario abbia proposto un investimento alternativo in un titolo di Stato, perché probabilmente, avendo un profilo di rischio simile a Banca Intesa, offriva rendimenti a scadenza magari anche leggermente superiori, visto la fiscalità migliore dei titoli di Stato, e quindi il suggerimento limitato a quel singolo switch mi sembra non scorretto, tutto sommato. Però, è difficile generalizzare. Devo dire che poi, tra l'altro, la mail di quell'ascoltatore si conclude con un "non aderisco all'offerta della banca", per cui si tiene le sue obbligazioni e ha deciso di portarsi la scadenza. Il nostro ascoltatore: che fiscalità hanno questi prodotti, Lupotto? Queste obbligazioni hanno la fiscalità al 20%, sia sulle cedole sia sulle plusvalenze, perché sono assimilabili alle obbligazioni corporate, non ai titoli di Stato. Allora, in attesa di altri ascoltatori, ritorno a Marcello Ferrara. Allora, quando Intesa San Paolo, poi chiaramente dovremo prendere in considerazione ogni singola scadenza, ha collocato questi prodotti, mi sembra che lo abbia fatto per tutti quanti alla pari, prezzo 100. Sul mercato poi successivamente saranno andati in maniera molto diversa, sono scesi molto, e adesso, a seconda della tipologia di obbligazione, la banca propone il riacquisto a chiaramente prezzi inferiori rispetto al collocamento, ma magari superiori all'andamento di mercato. Ferrara, mediamente come si è comportata la banca? Che tipologia di prezzi ha proposto? ma ha proposto dei prezzi superiori rispetto a quelli che erano le valorizzazioni di mercato. Sicuramente in tutti i casi abbiamo dei prezzi inferiori al 100, quindi sicuramente per il cliente che ha sottoscritto le obbligazioni in fase di emissione ci sono delle minusvalenze, tuttavia va fatto un ragionamento in ottica di portafoglio su un'eventuale decisione di liquidazione dell'investimento, in quanto va considerata la strategia di portafoglio complessiva. I prezzi comunque sono tutti quanti leggermente sotto 100, in alcuni casi ci sono delle minusvalenze importanti, allora in quel caso forse non vale a minusvalenze non vale lo stesso ragionamento, quindi il cliente può magari ritenere più opportuno mantenere l'investimento, così come diceva lei poc'anzi di quel cliente che non aderiva. In altri casi ci possono essere delle plusvalenze proprio perché vengono offerti valori superiori rispetto all'andamento del mercato, e ricordiamo che alcuni di questi titoli hanno scesi molto anche nei mesi scorsi, per cui c'erano opportunità di acquisto di questi tipologie di titoli a prezzi sensibilmente più bassi, quindi c'erano delle opportunità di fare delle plusvalenze, quindi qua va un pochino visto la situazione del portafoglio del singolo cliente. Ecco quindi proprio per specificare ancora meglio questo aspetto, diciamo che oggetto del riacquisto, della proposta di riacquisto da parte della banca, sono state sia obbligazioni che sono state vendute come un normale collocamento, la banca deve vendere un gruppo di obbligazioni e quindi la possibile acquirente le compra a 100, ma oggetto del buyback sono state anche obbligazioni che magari un sottoscrittore può aver comprato in un momento successivo al collocamento di primo tipo? Assolutamente sì, e tutte queste obbligazioni erano quotate su mercati secondari, in alcuni casi anche su mercati regolamentati come Milano piuttosto che il TLX, in alcuni casi i prezzi delle obbligazioni erano anche sensibilmente inferiori o sono stati sensibilmente inferiori rispetto al prezzo attuale, per cui ci possono essere state delle plusvalenze, qua varia in funzione di quando il singolo cliente è andato a acquistare il prodotto specifico. C'è un ascoltatore che scrive che vorrebbe intervenire per dire: è vergognoso che la Rosciani non si scandalizzi della situazione. Io non so di che cosa mi devo scandalizzare, se mi devo scandalizzare del fatto che la banca propone di riprendersi un'obbligazione e contestualmente suggerisce un BTP, mi posso anche scandalizzare, mi scandalizzerei se la persona fosse obbligata a firmare, a fare un investimento di questo tipo. Finché ci limitiamo la proposta, l'investitore ha la facoltà di dire di no valutando tutti gli aspetti di queste opzioni, non capisco perché mi devo scandalizzare, cerchiamo di spiegare bene le alternative. Lupotto, lei come la vedo? Se la banca facesse una proposta di questo tipo c'è da scandalizzarsi? Intanto che la proposta è di tipo volontario, ovviamente no. Tornando al discorso dei prezzi, sì. Se posso fare... Assolutamente sì, certo, altre precisazioni. Qualche precisazione, magari mi aiuterei con un esempio di una delle obbligazioni. Lei lo sa che è il nostro re degli esempi, io la chiamo sempre per quello, cominciando dal famoso concambio greco, dopo il quale lei è diventato il mio mito. Andiamo con l'esempio. Ecco, prendiamo per esempio una delle obbligazioni che è stata oggetto di riacquisto, no? Un'obbligazione scadenza 8 maggio 2018, collocata anni fa a 100. Ecco, anni fa quanto? Quanto può essere lunga questa obbligazione? Questa è stata collocata nel maggio 2008, quindi diciamo sono ormai 4 anni abbondanti. Quindi era un'obbligazione che valeva 10 comunque di durata decennale? Sì, esattamente. È un'obbligazione subordinata. Le oscillazioni di prezzo in questi 4 anni di questa obbligazione sono andate da 105, che è stato il massimo, 106, ma anche a un minimo di 70 nel marzo del 2009 e a 75 nel dicembre dell'anno scorso. Quindi è chiaro che occasioni e opportunità di acquisto a prezzi inferiori a quello di buyback, il prezzo di buyback è stato 98,50, ce ne sono state parecchie. Non solo, un ragionamento che si poteva fare un pochino più sofisticato è questo: dal momento che il prezzo di buyback è molto vicino alla pari, 98,5, e fatalmente queste obbligazioni obbligazioni oscillano molto di prezzo, un ragionamento che si poteva fare era dare questa obbligazione, rivendere questa obbligazione intesa e poi magari ricomprarsela sul mercato. Una mediazione. Tanto è vero che questa obbligazione qui, comprata a 98,50 da Intesa 2 giorni fa, adesso scambia sul mercato secondario a 96, quindi è già possibile ricomprarla ad un prezzo inferiore. Quindi fare proprio una mediazione tipica del mercato finanziario? Sì, più che una mediazione è proprio un'operazione di trading in questo caso, no? Vendere a Intesa un po' più alta e ricomprarla sul secondario un po' più basso. Suggerirei però ai nostri ascoltatori di non avventurarsi in operazioni di questo tipo in modo totalmente autonoma, a meno che non si capisca bene quello che si sta facendo. Roberto da Padova, buongiorno. Buongiorno signorina Rossani, complimenti per la trasmissione. E grazie per la signorina, grazie a lei, si figuri. Volevo dirle questo, per quanto ho capito. Allora, io ho un'obbligazione, San Paolo, tasso fisso 3%, scade nel luglio 2013. Le è arrivata la lettera della banca nei giorni passati? No. Allora magari non era oggetto di questa operazione. Quindi loro avranno scelto ad hoc quelli che hanno ritenuto le più interessanti a loro, no? Ai clienti in generale che facesse una scelta. Vabbè, volevo dirle. Perché lei la voleva rivendere, Roberto? No, tenuto fuori. La domanda è questa, ma io l'avrei voluto vendere anni addietro, ma comunque sono visto che insieme in prossima scadenza poi valuterò. Adesso volevo dire, questa qui, se io l'ho comprata come l'ho comprata, sopra 100 quando l'ho comprata, 4-5 anni fa minimo, no, e poi è scesa in questi anni qui anche a 98, come sappiamo, anche a 70, 80, adesso non lo so. Comunque, adesso se io la rivendo, è chiaro che se io gliela do alla banca, mi sono concesso, e mi dovrebbe dare il minimo il prezzo che l'ho acquistato, perché altrimenti dov'è il guadagno? Non la posso vendere anche domani mattina questo titolo qua. Aspetti lì Roberto, allora faccio fare una piccola ricetta, visto che stiamo chiudendo, ad entrambi i nostri consulenti, faccio fare a loro il proprio lavoro, i consulenti. Marcello Ferrara, Consultic. Non c'è garanzia sulla somma che effettivamente viene che è stata pagata, ossia il titolo può essere venduto sempre in qualsiasi momento, ma può essere venduto al prezzo di mercato di quel determinato momento. Quindi non è assolutamente detto che la banca o il mercato in questo momento sia disponibile, mettiamola così, a acquistare il titolo che il cliente aveva sottoscritto allo stesso prezzo a cui lui stesso l'aveva comprato. L'unica certezza che c'è quando ci troviamo di fronte a obbligazioni quotate è che a scadenza il cliente riotterrà 100, per cui l'unico elemento su cui può essere sicuro è che nel momento del rimborso otterrà 100. Gianni Lupotto, una piccola chiusura anche per lei, e se ci vuole mettere dentro anche due consigli di massima, qualora nei prossimi mesi ci fossero in circolazione altre operazioni di questo tipo, come deve trovarsi ben preparato il risparmiatore interessato? Sì, intanto all'ascoltatore che ha appena telefonato e che ha comprato anni fa sopra la pari, dico che certo ha comprato sopra la pari, ma ha goduto di un flusso cedole. Anche quello, infatti, che è un tema che non abbiamo toccato. Che non si può non considerare, quindi anche se la porta a scadenza con rimborso 100 avrà sicuramente un rendimento, piccolo o grande che sia, ma avrà un rendimento positivo. Per quanto riguarda future operazioni che dovessero essere lanciate, vanno valutate caso per caso, questa è la cosa migliore da fare, bisogna mettersi lì, fare due conti sulla base del prezzo di acquisto o eventualmente di collocamento, il prezzo riofferto, le cedole pagate nel periodo per sapere se si è, diciamo, in plusvalenza o in minusvalenza, tenuto conto anche del flusso cedolare, e poi caso per caso decidere se aderire o meno alle offerte, ricordando che sono sempre solo volontarie. Ma in ogni caso, insomma, se il mercato diventasse particolarmente vivace nelle prossime settimane da questo punto di vista, noi non mancheremo di tornare a chiaramente monitorare quello che sta accadendo. Andate in ferie entrambi tranquillamente, Lupotto, quest'anno, oppure monitorerete il mercato? Lo studio è sempre aperto. Per quello che riguarda lei, Ferrara, Consultic? Anche noi, Consultic, è sempre vigile. Presidiate. Anche in ferie comunque si è sempre vigile. Il denaro non dorme mai, d'altronde, come dicevano non solo al cinema con Wall Street, ma insomma è la grande regola aurea che abbiamo imparato a tenere ben in mente da qualche tempo a questa parte. Grazie a Marcello Ferrara di Consultic, Gianni Lupotto di Lupotto & Partners, grazie a Marco Lombardo per l'aiuto in redazione, Roby Scaltritti in assistenza tecnica.